il freddo, mi entrava dentro, mi prendeva il cuore, lasciava il resto. E quando se ne andava, tornava presto. Io che credevo che l'inferno fosse già questo, imparai a crescere in silenzio, forse troppo presto, corpo qualche pesto. Mi arrampicavo in alto fino al firmamento, la porta resta chiusa, i grammi sfumano, i drammi all'interno. E se ho sofferto, non sono certo l'unica. Messa con la tunica, già mi sentivo stupida. Mi domandavo per cosa fosse mea culpa. Io che sognavo l'immagine di me adulta e non vedevo, perciò mi sollevavo in punta. Guardavo il sole sciogliere il ghiaccio in questa tundra. Dalle parole capire il suono di una truffa. E pensavo uffa, questa è una giungla ingiusta. E tu, con l'acqua sempre fino al collo, che dici no non mollo, poi piangi sola e non lo racconti. Svuoti la tua brocca e poi t'accorgi che solo grazie a ieri se esiste il tuo oggi. Sono sempre stata brava a dare tutto agli altri e a ricordarmi di me stessa troppo tardi. Ma ho una paura che mi è sorta in questi anni di svegliarmi vecchia e stanca, quindi volo e smetto di pensarmi.